mitica. Vai, andiamo con questo pezzo che ricordo è contro quegli emittenti televisivi, non facciamo nomi, poi inizia per M e finisce per TV, che badano solamente ai soldi e producono anche band senza successo e va bene, buonanotte. Però ci piacciono molti Luna Pop, possiamo dire. Che belli. Abbiamo preso qualche ispirazione, qualche idea. Andiamo? Contattiamo il manager e il compositore, mi faranno la canzone ed io sarò l'attore. Siamo già d'accordo con le radio e MTV, basta fare il video e gli incassi sono già qui. Il senso canale TV e sto ben lontano da qui. Il senso canale TV. Se cazzate le solite menate, la canzone è già in corretta, ce la danno che è perfetta, basta acquistarla, dopo registrarla, muovere la bocca, sale il playback a cantarla. Nel senso care TV e fate lontano da qui. Nel senso care TV. Tutti uguali e senza ideali, servono solo ad aumentare i loro capitali. E voi ragazzi spendete e comperate, intanto tutto questo nel culo mi pigliate. Nel cesso care TV e state lontano da qui. Nel cesso care TV. Grazie, ciao, alla prossima stasera.